L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata che non potevamo non dedicare alla COP21, appuntamento di cruciale importanza per raggiungere un accordo internazionale sul clima che limiti il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi. La COP, conferenza delle parti, inizierà infatti dopodomani, il 30 novembre a Parigi, e si concluderà l'11 dicembre con un accordo, speriamo, ambizioso e vincolante per tutti i paesi. Radio 24, tra l'altro, seguirà con particolare attenzione questo appuntamento, cui parteciperemo sia io che la collega Cristina Carpinelli, e quindi potrete avere aggiornamenti quotidiani nei giornali radio, nelle trasmissioni come questa e nei reportage delle prossime settimane. Intanto però facciamoci inquadrare questa COP21, con chi ne abbiamo parlato? Con Carlo Carraro, professore di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, vicepresidente del gruppo terzo dell'IPCC, il panel intergovernativo dell'ONU per i cambiamenti climatici, nonché direttore scientifico della Fondazione Mattei e autore con Alessandra Mazzai di Il clima che cambia, appena pubblicato da Il Mulino. Professore, noi le chiediamo innanzitutto di inquadrarci la situazione e di spiegarci perché il limite dei 2 gradi. L'obiettivo nasce da una quantità molto grande di studi, di analisi, di ricerche che hanno cercato di valutare qual è l'impatto dell'incremento della temperatura sugli ecosistemi marini, sugli ecosistemi terrestri, ma soprattutto sulla vita, sulla nostra vita, la vita delle società umane nei vari contesti, nei vari paesi in cui i cambiamenti climatici possono avere un impatto. Va tenuto conto che un po' meno di un grado l'abbiamo già portato a casa, nel senso che le concentrazioni di gas serra hanno fatto crescere nell'ultimo secolo la temperatura di circa 1 grado. Quello che cerchiamo di evitare è che non aumenti di più di un altro grado, quindi è un obiettivo ambizioso, perché un aumento di un solo altro grado entro fine secolo significa tenere veramente sotto controllo la temperatura globale e quindi tutte le sue conseguenze negative in moltissimi contesti. L'obiettivo 2 gradi è un obiettivo scientifico e politico allo stesso tempo, tant'è che c'è chi sostiene che dovremmo puntare a 1,5 gradi, c'è chi sostiene che potremmo tollerare anche 2,5 gradi. I 2 gradi serve per dare una direzione, serve per far capire che c'è una soglia oltre la quale le conseguenze potrebbero essere ingestibili da parte delle società in cui noi viviamo, perché è importante sottolineare che comunque 2 gradi avranno degli impatti, comunque 2 gradi avranno delle conseguenze importanti, però conseguenze che immaginiamo oggi con le conoscenze che abbiamo essere gestibili, possiamo adattarci, possiamo controllarle. Sopra i 2 gradi entriamo in una sfera di eventi che potremmo non essere in grado di gestire. Rispondiamo subito a un'obiezione che viene sempre fatta, che è quella sul fatto che sulla Terra il clima è sempre cambiato, diciamo. No, adesso questa favola del clima è sempre cambiato è sicuramente vera, perché nella storia di centinaia di migliaia di anni della Terra questo è sicuramente successo, però noi siamo in grado di ricostruire quello che è successo negli ultimi 800.000 anni. Gli umani stanno su questo pianeta da circa 20.000, quindi andiamo indietro di 800.000 anni. Mai negli ultimi 800.000 anni abbiamo avuto concentrazioni di gas serra così elevate. Se posso dare un numero, sono sempre state all'intorno delle 300 parti per milione in volume, quell'unità di misura delle concentrazioni di gas serra. Oggi siamo a 400, una cosa mai vista in 800.000 anni. Quindi sicuramente c'è qualcosa di diverso e di qualcosa che è cambiato con grande rapidità. Perché è cambiato con grande rapidità? Anche qui non ci sono più incertezze, ma il 99,9% degli scienziati condivide questa conclusione, perché è supportata da tantissime evidenze di tipo scientifico, è che la responsabilità sta nelle emissioni in atmosfera di gas serra prodotti dall'attività umana, da tante attività umane, non soltanto dai combustibili fossili che vengono bruciati per produrre energia elettrica, ma anche da quelli usati per i trasporti, per le abitazioni, dalle attività agricole, dalla deforestazione. Sono tante le cause. Il risultato è che l'attività umana è la causa di questo fenomeno. Abbiamo chiaro a questo punto anche quale di queste attività umane è quella che genera più emissioni, la produzione di energia? Sì. Sì, circa il 34%, stando all'ultimo rapporto IPCC, è legato alla produzione di energia. Poi abbiamo l'uso dell'energia nel settore industriale, l'uso dell'energia nel settore agricolo, che sono al secondo posto, ma non solo l'uso dell'energia, anche appunto l'uso di fertilizzanti, l'attività di allevamento di bestiame, sono tante le attività in agricoltura che hanno un impatto sulle concentrazioni di gas serra. E poi dietro in percentuale abbiamo settore abitativo e trasporti, che contribuiscono anche loro con una percentuale più bassa, ma insomma contribuiscono. E quindi è evidente che ciascun settore deve dare il suo contributo, perché tutti producono emissioni, no? Assolutamente sì, e il guaio è che non solo tutti le producono, ma le producono in modo crescente, con l'eccezione del settore agricolo, unico settore che negli ultimi anni ha diminuito le proprie emissioni. Due numeri semplicissimi: la prima conferenza, quella prima delle conferenze che ci hanno portato a Parigi, è stata tenuta nel 92 a Rio de Janeiro. Da quel giorno, quando abbiamo cominciato a negoziare, ad oggi le emissioni sono salite del 61%. Dunque, leggo dal suo libro: per avvicinarsi all'obiettivo 2 gradi è necessario raggiungere un picco di emissioni al più presto e poi vederle diminuire del 40-70% a metà secolo, fino a raggiungere quota zero al 2100. Non abbiamo ancora raggiunto il picco, nonostante questi aumenti di cui lei ci diceva. No, proprio a causa di questi aumenti appunto il picco non l'abbiamo raggiunto, anzi appunto stiamo salendo. Gli impegni che i paesi hanno sottomesso a Parigi faranno sì che le emissioni per la prima volta si stabilizzeranno, non scenderanno ancora. Ovviamente stiamo parlando a livello globale, poi in alcuni paesi d'Europa, gli Stati Uniti scenderanno e scenderanno molto, però a livello globale si fermeranno, ma già questo è un grande risultato, non saliranno più e si fermeranno. Poi dopo il 2030 dovranno cominciare a scendere, però ecco, Parigi diciamo che è il picco e sarà importante proprio per questo. Come facciamo a raggiungere l'obiettivo? Intendo politiche di mitigazione, di adattamento, che altro? È uscito in questi giorni un rapporto della Banca Mondiale molto interessante, perché fa vedere qual è la combinazione tra strategie di adattamento al cambiamento climatico e strategie di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni. Nel breve periodo, visto che il cambiamento climatico è in corso e i suoi impatti cominciano a vedersi, è inevitabile intervenire con strategie di adattamento, e non stiamo parlando dell'Europa, stiamo parlando soprattutto dei paesi più vulnerabili. In alcune regioni africane o del sud-est asiatico il cambiamento climatico sta già avendo effetti devastanti su quelle popolazioni. Ci sono situazioni in cui l'acqua è sparita, i laghi si sono prosciugati, gli acciai non ci sono più. Faccio notare che la prima misura di adattamento di queste società è quella di migrare. Nel più lungo periodo dobbiamo ridurre le emissioni, perché se vogliamo raggiungere l'obiettivo non più di 2 gradi, se vogliamo evitare che la temperatura salga a fine secolo a 3 o 4 gradi, dobbiamo ridurre le emissioni, e dobbiamo farlo subito, perché il processo è lentissimo, le emissioni di gas serra rimangono in atmosfera molto a lungo. Il clima che viviamo non è il frutto delle emissioni di oggi, è il frutto delle emissioni di 50-60 anni fa. Se vogliamo avere un impatto correttivo dobbiamo cominciare adesso, per vedere gli effetti di queste correzioni, gli effetti sostanziali di queste correzioni tra 50-60 anni. A proposito di conseguenze, lei ne ha già citata una, quella delle migrazioni. Se quali altri ambiti vengono toccati dal cambiamento climatico? In mente mi ha molto colpito il capitolo sulla salute. Sì, è collegato e probabilmente sarà uno di quelli più tangibili. Adesso ci sono tanti esempi che possiamo portare, ma forse uno su cui potremmo centrare l'attenzione è la presenza della zanzara tigre, che sta sostituendo e ha sostituito in molte aree d'Italia le zanzare tradizionali, che erano molto più innocue e molto meno efficaci nel dare fastidio alle popolazioni, ma soprattutto non sono portatori di virus, mentre la zanzara tigre si porta dietro un virus piuttosto grave, quello del Nilo del West, che la zanzara tradizionale invece non portava. Quindi, piccolo esempio, ma perché è successo? Perché il clima, cambiando, sposta sia i vettori delle malattie, appunto le zanzare, sia i virus stessi, in posti in cui prima non si osservavano. E anche queste non sono congetture. Gli studi fatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli studi pubblicati sull'Lancet, che è la rivista più prestigiosa in campo medico, sono molto chiari nell'aver già osservato questi spostamenti. Dunque, per in conclusione, tornando al discorso della energia, l'energia che poi è anche il motore dello sviluppo, è ovviamente richiestissima ovunque nel mondo, quindi dobbiamo aiutare, diciamo così, anche le popolazioni dei paesi in via di sviluppo a saltare, diciamo, un passaggio che è quello che noi abbiamo vissuto del periodo del carbone, dell'uso dei combustibili fossili, con nuove tecnologie, senza passare attraverso questa fase che sappiamo ormai essere deleteria per il clima. Certo, anche con una precisazione tuttavia, è vero, e dobbiamo fare una cosa simile a quella che è successa nella telefonia, cioè in ampie aree del pianeta la telefonia fissa non esiste, sono saltati direttamente a quella mobile. Al wireless e a tutto ciò che questo comporta. Dobbiamo fare la stessa cosa per energia, puntare decisamente sulle rinnovabili, ma le rinnovabili hanno però un problemino di diffusione, hanno il problema dell'intermittenza, non funzionano 24 ore al giorno, quindi bisogna accoppiare le rinnovabili in attesa di trovare dei sistemi di conservazione dell'energia efficaci. Nel frattempo la transizione deve essere progressiva, qui dobbiamo andare in questa direzione. Come facciamo per sopperire al problema dell'intermittenza delle rinnovabili? Il combustibile fossile meno inquinante è il gas, quindi dobbiamo andare con decisione ad eliminare tutto il carbone, ma per sostituirlo col gas come strumento che garantisce la transizione verso delle rinnovabili, che, per quanto detto, deve essere per forza progressiva. No? Ma a Parigi, quindi la COP21, si affronta anche il tema di come sostenere economicamente questi paesi a fare la transizione, come... No, sicuramente sì, è uno dei temi importanti, né, che le due non possiamo fermarci ai principi, ecco, questo intendo dire. No, assolutamente, cioè, sono tre svolte storiche, tre svolte buone, come direbbe Renzi a Parigi. La prima riguarda il fatto che non c'è più questa contrapposizione tra paesi sviluppati e paesi in sviluppo nel decidere di ridurre le loro emissioni. Per la prima volta tutti i paesi, 168 paesi ad oggi, hanno deciso di proporre delle misure di riduzione delle loro emissioni. La seconda svolta, l'ho menzionata prima, è che le emissioni a livello globale, se gli impegni di Parigi saranno rispettati, cominceranno a fermarsi, si fermeranno, non continueranno a crescere, e si spera che dopo il 2030 saremo capaci anche di farle scendere. La terza svolta è che per la prima volta verrà effettivamente finanziato, non dico effettivamente finanziato perché la decisione è una decisione di qualche anno fa, ma i soldi non erano mai arrivati. A Parigi l'impegno sarà di mettere effettivamente le risorse, 100 miliardi di dollari, per poter aiutare i paesi in via di sviluppo, da un lato a proteggersi dai cambiamenti climatici, visto che ne soffrono più di tutti, dall'altro a ridurre le loro emissioni facendo quel salto tecnologico di cui lei parlava, che è importante, e la cooperazione tecnologica è uno dei capisaldi dell'accordo di Parigi. Ci ritroviamo tra poco per parlare di energie e di rinnovabili. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini in questa antivigilia della COP21 di Parigi, che, come abbiamo detto nella prima parte, è un appuntamento cruciale per importanza per raggiungere un accordo internazionale sul clima che limiti il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi. L'energia, ci ha detto poco fa il professor Carraro, è il settore che produce più emissioni, e di energia, ma non solo, quindi abbiamo parlato con Maria Antonietta Portaluri, che è direttore generale di ANI e Confindustria, la federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, che lavora molto sulle rinnovabili. Federazione ANI rappresenta tutta l'industria elettrotecnica elettronica nazionale, che è la seconda industria europea, quindi esporta in tutto il mondo tecnologia, proprio tecnologia green. Quindi è chiaro che le industrie rappresentate dal nostro settore, che sono poi delle eccellenze a livello non soltanto europeo ma mondiale, sono quelle che vedono proprio nei cambiamenti climatici un'opportunità e non un vincolo, e che quindi hanno fortemente spinto e sono fortemente contenti anche di un impegno del Paese Italia attraverso il Ministro Galletti, che fa suo con il Green Act, e poi molti dei temi del Green Act discussi a livello nazionale verranno portati nel dibattito di Parigi, su come le tecnologie possono garantire una forte contribuzione a quello che è l'obiettivo che tutti abbiamo di ridurre le CO2, perché se per ridurre le CO2 bisogna ridurre le fonti fossili, per ridurre l'uso delle fonti fossili bisogna intervenire con misure che diffondano le tecnologie che consentono elevati livelli di efficienza. Certo, la diffusione di queste tecnologie tra l'altro consente lo sviluppo di nuovi mercati, cioè aiutare paesi che devono fare ancora il grande salto a farlo direttamente su tecnologie di alto profilo. Esatto. E le nostre, voglio dire, lo dico con vanto, perché l'industria nazionale, che sia la seconda industria a livello europeo che esporta in tutto il mondo, esporterà proprio queste tecnologie, che sono sia tecnologie per l'efficienza nelle nuove costruzioni oppure nelle riqualificazioni delle costruzioni, che esporterà il modello delle rinnovabili, perché tutto il grosso sviluppo delle tecnologie rinnovabili, quindi di produzione da fonte rinnovabile, che ha avuto il nostro paese, secondo uno sviluppo che è stato uguale anche in Germania, in Spagna, quindi nei maggiori paesi europei, perché c'è stata una precisa indicazione dell'Unione Europea. Come ben sa, lo sviluppo delle rinnovabili, che necessariamente è dovuto passare per una prima forma di incentivi, ha fatto tanto discutere, ma io credo che senza quegli incentivi alle rinnovabili non si sarebbe avuto la crescita non soltanto nel nostro paese in tutta Europa di installato di rinnovabili, ma anche la capacità delle aziende di esportare questo modello in Africa o di esportarlo in India, visto che l'India siederà a Parigi e ha dichiarato di voler aumentare la riduzione delle emissioni, l'abbattimento delle emissioni al 35% basandosi sulle rinnovabili. Quindi noi come paese abbiamo innovato, abbiamo investito e saremo in grado, secondo me, se opportunamente sapremo spingere sulla nostra industria, sulla tecnologia delle nostre industrie, anche portare le tecnologie nei paesi che più ne hanno bisogno, per contribuire anche loro alle riduzioni delle emissioni, perché ovviamente l'impegno deve essere poi globale per poter arrivare al risultato finale. Ma ci vorrà, per portare in questi paesi appunto le vostre tecnologie così avanzate, ci vorrà anche un impegno, immagino, economico e finanziario, cioè la COP21 non avrà sufficiente successo se non riuscirà anche a finanziare questo tipo di operazioni. Adesso lo chieda lei, che ovviamente però certo. Beh, noi siamo parte in casa, ma le aziende e le associazioni come le nostre supportano le aziende nell'internazionalizzazione, quindi noi ogni anno abbiamo dei piani importanti finanziati cofinanziati dalla nostra associazione e anche dal Ministero, quindi il Ministero nazionale ha dato un bel impulso su questa cosa per finanziare proprio dei programmi di internazionalizzazione, per cui le aziende riescono ad esportare questi modelli in quei paesi, e naturalmente il finanziamento, come lo dice, è previsto e che potrebbe essere aumentato e dirottato nella conferenza di Parigi verso questi investimenti in quei paesi, fa la parte complementare, quindi porterebbe alla possibilità effettiva poi di realizzare queste infrastrutture, questi grossi progetti di investimento in quei paesi, sicuramente. Senta, mettiamo un attimo da parte la questione rinnovabili. Lei prima mi accennava alla efficienza energetica degli edifici. Sì, noi abbiamo tutte le tecnologie che riguardano l'edificio e stiamo portando avanti con degli studi. Riusciamo a dimostrare che il ruolo della tecnologia all'interno dell'edificio porterà a dei grossi risparmi, perché fino adesso si è avuta una politica volta a fare degli interventi che riguardano l'involucro, quindi la parte ovviamente esterna, strutturale, no? Isolamento degli immobili, che sicuramente è importante. Si è sottovalutato invece quanto la tecnologia, la building automation, la tecnologia domotica, gli interventi sull'illuminazione intelligente portano in termini di risparmio. Adesso a fronte appunto dei grossi investimenti fatti dalle aziende e dell'offerta tecnologica che c'è sul mercato, abbiamo anche un'apertura a livello normativo con il riconoscimento di queste tecnologie nell'ambito delle prestazioni energetiche degli edifici. Un aspetto che tocca particolarmente il nostro paese è quello della riqualificazione, perché l'intervento No? Se noi immaginiamo che il tasso di riqualificazione è dell'1% annuo, tutto il nostro patrimonio immobiliare, parlo del pubblico e del residenziale privato, è fatto negli anni 70, quindi gran parte negli anni 70, gli interventi dovrebbero proprio essere degli interventi non l'1% invasivi. Addirittura, il così tasso, basso? Sì, molto basso. È imbarazzante, no? Se pensiamo a quanto c'è da riqualificare in giro di questo passo, con questo qua ci mettiamo 100 anni. Sì. Infatti, se lei vede l'ultimo decreto sulla pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione ha fatto una bella, cioè il ministero ha fatto una bella figura, perché dice, beh, io dico che la pubblica amministrazione deve riqualificare il 3% dei suoi edifici l'anno, no? Che è una bella media se il tasso è l'1, quindi noi ci auguriamo, certo, che triplica poi il tasso da quel esatto. E gli interventi nella pubblica amministrazione, negli edifici della pubblica amministrazione, sono importanti, no? Immaginiamo al rivedere anche tutto il sistema di illuminazione delle scuole o degli ospedali, quello è tutto intervento che potrebbe fare la pubblica amministrazione e che adesso ha in programma di fare. E le tecnologie applicate consentono di abbattere di moltissimo, quasi del 50%, il risparmio energetico degli edifici, con un investimento che si recupera in 3 anni. Quindi, ecco, comunque, quindi non è solo una questione di pubblico, è anche una questione di privato, sì, che dovrebbe poter no, programmare questo tipo di intervento. Esatto. Dovrebbe programmare. Infatti noi sul privato siamo intervenuti chiedendo a gran voce che quella misura che poi ha funzionato bene, che è l'ecobonus così più volte prorogato, diventi una misura strutturale e si allarghi anche all'aspetto tecnologico, quindi che ampli il perimetro degli interventi che sono finanziati dall'ecobonus, tenendo in considerazione interventi di building automation, di illuminazione intelligente, oltre che di revisione anche dell'efficienza degli stessi ascensori, perché anche sugli ascensori, il parco ascensori che noi abbiamo, anche questo con degli interventi sugli inverter potrebbe essere efficientato. Cioè sono solo dei piccoli accorgimenti che l'industria nazionale è già in grado di offrire, che potrebbero migliorare di gran lunga l'efficienza energetica degli edifici, che sono responsabili del consumo del 40% dell'energia mondiale. È una fetta consistente, molto consistente. Il resto è ripartito su tutte le altre attività, ma il 40% su una. Il resto si gioca tra i trasporti e l'industria, quindi 40 sono i trasporti, 20 l'industria. L'ultima domanda che le voglio fare, le rubo l'ultimo minuto, è questa. Si parla sempre del fatto che la Cina ha scoperto, diciamo così, questo mondo particolare delle rinnovabili. È un qualcosa che per il momento non vi mette in allarme o vi sta mettendo in allarme? Non ci mette in allarme, perché se si riuscissero comunque la Cina scopre le rinnovabili con l'idea di implementare le rinnovabili in Cina, quindi questo ci vede anche favorevoli, perché dovendo comunque rivedere, no, lo stiamo facendo come Italia, lo stiamo facendo come Europa, lo schema elettrico, perché ormai non abbiamo più un unico produttore e tanti consumatori, abbiamo tanti produttori e tanti consumatori, che se io produco sul tetto di casa mia sono un produttore. Quindi questo, la generazione distribuita che si è diffusa in Europa e che si sta diffondendo già in tutti i paesi, porterà a un grande ripensamento dello schema elettrico e quindi della rete. Cioè a questo punto la rete deve essere una rete adesso europea, e poi immaginiamo delle interconnessioni, quindi comunque sarà un modo per arrivare ad un'integrazione sempre maggiore anche con questi paesi. Quindi non ci spaventa, ma si vede addirittura come una sfida. Bene, allora buona sfida. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.